America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, si apre la prima settimana del 2011. Il presidente Barack Obama sta rientrando a Washington. Abbiamo avuto una notizia, ultimo scandalo WikiLeaks, che il presidente George W. Bush riuscì a convincere il re dell'Arabia Saudita Abdullah a comprare 43 aerei Boeing, e soprattutto nel fine settimana abbiamo avuto l'insediamento di Andrew Cuomo nella poltrona di governatore dello stato di New York, la poltrona, ricordiamolo, che fu già del padre Mario Cuomo, uno dei più grandi politici americani, dovrei dire italo-americani. Andrew Cuomo è italo-americano, ovviamente, come il padre, e vorrei dunque partire da questo per aprire una parentesi. Vorrei dedicare alcune delle puntate che faremo da qui ai prossimi mesi al rapporto pre-italo-americani, cioè al rapporto degli Stati Uniti d'America con gli italiani. Celebriamo quest'anno il 150esimo anniversario della nostra unità. Ebbene, proprio a cavallo degli stessi anni, molti italiani del Risorgimento sono venuti negli Stati Uniti per aiutare nella guerra di secessione. Gli italiani vennero anche prima, durante la guerra di indipendenza. Pensate che ci sono stati addirittura 3 reggimenti italiani per 1500 uomini che sono venuti dall'Italia per combattere contro gli inglesi. Il terzo Piemonte, il 13° Cavalleria du Perché e il reggimento italiano reale. Ci sono stati personaggi eroici, ad esempio Filippo Mazzei, che ha combattuto al fianco di Thomas Jefferson. Poi nella guerra di secessione addirittura l'arrivo fu di migliaia di persone. Si calcola che ci furono fra i 5.000 e i 10.000 soldati italiani che parteciparono sia da una parte che dall'altra alla guerra di secessione, e coloro che erano schierati con il Sud venivano soprattutto dal Sud Italia, venivano dal Regno delle Due Sicilie, dai Borboni. Storia straordinariamente interessante, un parallelo fra questi nostri due paesi che vorrò esplorare, vi dicevo, nel corso delle prossime puntate, ma che cominciamo ad esplorare da oggi con un episodio molto specifico. Londra, 1864. Raccomando a tutti i cittadini americani che simpatizzano con me, Carlo Rubio, coraggioso, attivo, risoluto, è disposto a unirsi ai difensori della causa dell'emancipazione dei neri. Merita di essere aiutato. Firmato Giuseppe Mazzini. Le parole che avete sentito sono di Cesare Marino, antropologo dello Smithsonian Institution, una delle più importanti istituzioni di ricerca americane a Washington, raccoglie tra l'altro tutti i musei di Washington, in una cerimonia dedicata a Carlo Camillo di Rudio. Carlo Camillo di Rudio era uno degli eroi del Risorgimento italiano, vita straordinariamente avventurosa, che a un certo punto è arrivato in America. E questa cerimonia si è svolta al cimitero militare di San Francisco, al Presidio, che è stato uno dei primi cimiteri militari costruiti in California. Ho visto le immagini, erano immagini molto belle, una giornata di sole, questo cimitero un po' in alto che si affaccia sulla grande baia di San Francisco, queste lapidi di marmo bianche tipiche dei cimiteri militari americani, una di queste appunto dedicata a Camillo di Rudio. Si celebrava quel giorno, il 1° novembre, il 100° anniversario della sua morte, avvenuta nel 1910. Ecco, noi abbiamo in linea Cesare Marino. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora vorrei ricostruire con lei un po' intanto qual è lo spirito del Risorgimento che in qualche modo si è trasferito negli Stati Uniti d'America. Facendo riferimento al personaggio di cui lei ha appena accennato, questo nostro Carlo Camillo di Rudio, lo spirito del Risorgimento è che ci fu in effetti un certo parallelismo tra quello che stava succedendo in Italia, appunto, con la spinta risorgimentale, e la guerra di secessione americana, perché in entrambi i casi erano nell'interesse generale delle due nazioni appunto questo desiderio di mantenere o quantomeno di raggiungere e di non lasciare andare l'unità nazionale. Quindi in America il discorso era la secessione e lo schiavismo, in Italia l'Italia invece era appunto l'unificazione del paese e la libertà al di là di quelli che erano i giochi e le potenze straniere, soprattutto l'Austria e poi lo Stato Pontificio. In questo contesto noi abbiamo personaggi famosi come Mazzini, Garibaldi e Cavour, è una schiera numerosissima di personaggi cosiddetti secondari, tra i quali questo Carlo Camillo di Rudi, i quali dopo aver combattuto in Italia per l'unificazione nazionale fanno questo salto qualitativo e vanno in America e combattono appunto per l'esercito statunitense dell'Unione contro i secessionisti. Io infatti prima ho dato un'idea che c'era stato un movimento abbastanza di massa, alcune migliaia di italiani erano qua, dunque Carlo Di Rudio diventa il nostro primo esempio pratico, perché ha avuto, diciamolo, una vita straordinariamente avventurosa, ha partecipato ai moti del 1848, dopodiché andò a Roma in difesa della giovane Repubblica, ha conosciuto Garibaldi, Mazzini, i fratelli Dandolo, Aurelio Saffi, Goffredo Mameli, Nino Bixio, insomma è stato un personaggio, direi così, a suo modo anche lui leggendario. Poi partecipa addirittura in Francia all'attentato contro Napoleone III, dopodiché viene condannato all'ergastolo. E quindi insomma una vita avventurosa, finisce alla Cayenne, che era la prigione francese nei tropici, da lì poi riesce a scappare e a un certo punto, di nuovo in mezzo a mille circostanze avventurose, approda poi in America. Verso la fine della guerra di secessione il suo ruolo nella guerra appunto di secessione fu estremamente importante, perché fu uno dei pochi ufficiali a cui venne affidato l'incarico di guidare i neocostituiti reparti delle cosiddette truppe di colore, un incarico che era disegnato dagli ufficiali cosiddetti Yankee. Carlo Di Rudi invece accettò l'incarico e mi sembra con il grado di tenente fu alla guida di uno di questi neocostituiti reparti di le cosiddette truppe di colore. The battle was over at Custer's last stand and taps were sounding for all the brave men while Carlo Di Rudio poi nella sua carriera a quel punto viene arruolato nell'esercito americano e col 7° Cavalleggeri sotto il comando del generale Custer va alla battaglia di Little Bighorn. Ecco, voglio dire ai nostri ascoltatori che Cesare Marino ha una storia molto interessante per conto suo, perché insomma è in America da oltre 30 anni ed è un antropologo che si occupa soprattutto di indiani, della storia degli indiani, uno dei più grandi esperti della storia indiana qui negli Stati Uniti d'America. E dunque lei ha scritto un libro, Dal Piave a Little Bighorn, in cui esplora in particolare la vicenda di Carlo Di Rudio anche in relazione a quello che è successo a Little Bighorn. Ecco, io su questo vorrei farle un paio di domande. Intanto cominciamo con la storia. Cosa succede a Little Bighorn? Perché muoiono tutti, incluso Custer, massacrati dagli indiani, però Di Rudio si salva. La battaglia di Little Bighorn in effetti furono due battaglie separate, lo stesso giorno e il giorno successivo, il 25 e il 26 di giugno. Due battaglie separate nel senso che il generale Custer aveva diviso il suo reggimento in tre unità. E l'unità alla quale era stato poi assegnato il nostro Carlo Camillo Di Rudio era quella che insieme agli ordini del maggiore Rino attaccò il grande villaggio alleato dalla parte sud. Questo primo attacco venne respinto dagli indiani, mentre il generale Custer cercò di aggirare l'accampamento dal lato nord e lì dove i Custer, i cinque squadroni al suo seguito, vennero praticamente fatti fuori fino all'ultimo uomo. Quindi in effetti questi due episodi del grande scontro della battaglia di Bighorn si svolsero senza un coordinamento tra i vari reparti, ed è per questo che il nostro Carlo Camillo Di Rudio e gli altri tre italiani che erano a seguito del 7° Cavalleggeri si salvarono quel giorno. Ecco, qua c'è una punta polemica che io vorrei sollevare con lei, perché in realtà il governo americano aveva firmato un accordo con gli indiani per lasciargli tutto il territorio intorno al campo di battaglia dove poi si è svolto questo epico scontro, per poi rimangiarsi la parola, perché c'erano stati dei cercatori d'oro, sembrava che ci fosse molto oro disponibile e quindi hanno voluto riavere indietro questi territori. Gli indiani si sono opposti e, diciamo, è stata una cosa ingiusta dal punto di vista degli americani. Come mai uno come Rudio, che era un tutore dei diritti di tutti e dunque avrebbe in teoria preso le parti degli indiani, invece si schiera e va contro di loro? È difficile dare una lettura moderna a questa, alla contraddizione che noi vediamo appunto nell'aver combattuto sia prima per il risorgimento italiano, poi per aver combattuto contro lo schiavismo e poi aver dato il proprio servizio per togliere la libertà ai nativi americani. Ma questa lettura è un po' falsata, perché viene fatta con un'ottica moderna. C'è un riconoscimento da parte americana del ruolo che questi italiani hanno svolto? Certo, non erano centinaia di migliaia, però erano comunque alcune migliaia. Solo in questi ultimi 10-15 anni che c'è una riscoperta, anche da parte degli storici italoamericani, del grande contributo degli italiani alla creazione di questa nuova nazione. In effetti, andando a scavare negli archivi della storia americana, si trovano esempi singolarissimi. Il bergamasco Giacomo Costantino Beltrami nel 1823, questo da solo se ne va in canoa con due guide indiane alla ricerca delle sorgenti del più grande fiume d'America e lo scopre. Prima di lui, verso la fine del Settecento, un altro giovane italiano, Paolo Andreani, e anche lui risale il fiume Hudson e poi il fiume Mohawk e visita i villaggi irochesi. Conosce Thomas Jefferson, George Washington. Questi due personaggi rappresentano in effetti quella che è la proverbiale, la punta dell'iceberg, la cima dell'iceberg, e anche, diciamo, in occasione del 150enario dell'Unità d'Italia ci si rende ancora di più conto di come questo genio italico abbia avuto un contributo non indifferente, anzi senz'altro fondamentale, nella formazione degli Stati Uniti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il 15 febbraio uscirà il nuovo album dei Bright Eyes, intitolato The People's Key. Dei Bright Eyes, First Day of My Life. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.